I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alberto Orioli. Alvin Italy, oltre alla consueta rassegna di uno dei più straordinari prodotti italiani, è emersa chiara ieri la necessità di puntare molto sulle nuove modalità di distribuzione, a cominciare dall'e-commerce e soprattutto per raggiungere i mercati più lontani. Marco Polo ha impiegato 8 anni per andare e tornare dalla Cina, con internet possiamo impiegare 8 secondi. Ha detto Jack Ma, il fondatore di Alibaba, la piattaforma più diffusa di commercio online al mondo, che è intervenuto ieri a Verona proprio con il premier Matteo Renzi per suggellare una sorta di alleanza digitale per la distribuzione del Made in Italy. In Cina, infatti, il vino italiano è ancora una quota risibile del 6% sul totale delle esportazioni, contro ben il 55% dei francesi. Le potenzialità quindi sono enormi. Al mondo ci sono 2 miliardi di persone nate dopo gli anni 80, ha spiegato ancora Jack Ma, e molte di queste sono in Cina e hanno una grande voglia di Italia, di prodotti italiani, ma non sempre o forse non ancora possono venire loro in Italia, per questo dovete andare voi in Cina. Alibaba e il commercio online vi offrono questa possibilità, ha detto ancora Jack Ma. Occorre però investire e creare canali di distribuzione sicuri, senza contare che uno dei grandi pericoli per Made in Italy sono i falsi e l'enorme mercato del cosiddetto Italian Sounding. Jack Ma però è stato chiaro: noi non amiamo i falsari e i contraffattori, solo lo scorso anno abbiamo contribuito a farne arrestare 700. Anche per questo confermo che noi siamo i migliori alleati dei produttori italiani, anche per il rispetto della legalità e non solo per l'incremento dei fatturati. E c'è da credergli e da sperare che ciò aiuti l'esportazione italiana, anche perché l'Italia vuole puntare all'export di vino a 7,5 miliardi e a 50 miliardi quello per l'intero agroalimentare entro il 2020. Sono obiettivi ambiziosi, illustrati sempre a Verona dal premier Matteo Renzi, ma in questo momento l'Italia ha certo bisogno di scommesse forti. Se poi davvero arrivasse anche l'investimento in banda larga, tutto funzionerebbe un po' meglio. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alessandro Plateroti. Il debutto, quantomeno in borsa, visto che ancora non esiste concretamente, del nuovo fondo da 5 miliardi per ricapitalizzare le banche in crisi e rilanciare il credito e soprattutto riacquistare i crediti in sofferenza dalle banche, ha avuto un'accoglienza a due velocità sui mercati finanziari. Prima un gran rimbalzo delle banche, che ha fatto ben sperare su un'accoglienza calorosa dei mercati finanziari di fronte a questo tentativo da parte delle stesse banche, quindi senza il ruolo dello Stato, di poter risolvere i loro problemi. Ma che cosa è successo per compromettere poi nel pomeriggio l'intera seduta borsistica con l'indice FTSE MIB che ha perso quasi il 3%? È intervenuto il Fondo Monetario con una mazzata non prevista sulle prospettive di crescita italiane. Già erano state riviste un po' a ribasso nelle settimane scorse, ma le critiche del Fondo Monetario, soprattutto rivolte sulla crescita italiana, che a causa dell'eccesso di austerity e delle difficoltà nell'export sta risentendo del rallentamento più degli altri, beh, quello è stato accolto come un nuovo colpo durissimo sulle speranze di ripresa non solo dell'economia ma soprattutto delle banche. Andrà effettivamente così? I mercati finanziari in questo periodo sono ad alta volatilità, è difficile stabilire se una tendenza di un pomeriggio sarà quella della mattina, ma una cosa bisogna dirla: lo sforzo delle banche c'è stato, quello dei mercati ancora non si vede, quantomeno per comprendere che quello che sta facendo oggi il nostro sistema è il massimo alla luce delle risorse disponibili. Se non ascoltano i mercati, l'importante è che prima o poi ascolti l'Europa. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.